AirPlay lo utilizzi? Quello sì. Secondo te è semplice? Certo, è più semplice perché non c'è bisogno dei fili. Uno deve stare un'ora a attaccare tutti i fili. Quindi anche per visualizzare i video è più comodo. Certo, molto meglio. E invece la musica? La musica lo stesso, cioè magari mando, c'ho la canzone sul telefono e la mando allo stereo, la mando... Trovi delle difficoltà con la lettura dei formati? Allora, dipende un pochino, tipo sullo stereo ce l'ho un po' vecchiotto, quindi magari gli MP4, questi nuovi non me li legge, però per quanto riguarda gli MP3, va bene.